Non ci sono più le mezze stagioni, con me Roberta Giordano e con i vostri commenti sulle notizie della settimana. E in questa puntata in compagnia di, signore e signori, Maria Laura Rodotà, commentatrice del Corriere della Sera. Che cosa dirà col suo notorio spirito puntuto sui tanti fatti di questa settimana? Per saperlo non vi resta che ascoltare Non ci sono più le mezze stagioni, sabato alle 14 su Radio 24. Anche sul canale 700 di Sky.